Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata sono fratelli, sono entrambi scrittori e per la prima volta hanno firmato un romanzo a quattro mani, Gianrico e Francesco Carofiglio con La casa nel bosco. Al via il maggio dei libri, obiettivo portare la lettura in posti insoliti. Tempo di premi letterari, i vincitori del Mondello. Sono due fratelli. Non vi dico ancora chi sono. Sono nati e cresciuti a Bari, sono entrambi scrittori, naturalmente, se no non sarebbero ospiti del cacciatore di libri, ma sono venuti qua per cantare. Poi vi spiegherò il perché. Loro sono Gianrico e Francesco Carofiglio, per la prima volta insieme, almeno come romanzieri, perché avevate fatto una cosa insieme, se non ricordo male, un graphic novel, giusto? Ricordi bene, abbiamo fatto un graphic novel, che è stato il nostro modo, diciamo, pomposo per dire un romanzo a fumetti, ma ci siamo molto divertiti allora e anche stavolta. Voi avete una scrittura decisamente diversa, di entrambi, insomma, qua sul sito di Radio 24 potete ritrovare le vecchie interviste sugli altri libri, sia di Francesco Carofiglio con Walk, di Gianrico Carofiglio credo che abbiamo l'opera Omnia o quasi. Sì, quindi insomma si possono inquietante, insomma si possono ritrovare nel nostro archivio tutte le interviste. Voi avete un modo di scrivere come narratori proprio diverso, eppure avete accettato, perché lo raccontate proprio in questo romanzo che si chiama La casa nel bosco, pubblicato da Rizzoli, avete accettato di scrivere questo romanzo a quattro mani proprio sulla vostra vita, cioè sui ricordi della vostra infanzia e della vostra gioventù, legati soprattutto a odori e sapori. Allora, tiriamo subito fuori la domanda cattiva, visto che ormai ci conosce: perché? Cioè, perché fare un libro che ha a che fare col cibo, ormai lo fanno tutti, le ricette, le cose, e farlo insieme? Chi risponde, Francesco? Soprattutto perché la domanda cattiva a me? No, io ho fatto una domanda già, e poi è stato tuo fratello che ti ha indicato. Gli ascoltatori non possono vedere, esatto. Però Gianrico Carofiglio ha indicato il fratello Francesco per rispondere. La mala parata. E quindi... Però posso provare a rispondere io, se vuoi, visto che c'è la domanda cattiva. Vai. No, io posso rispondere. Questo non è un libro né di cucina. Non è un libro di genere, di fatto, e non è neanche un libro di memorie in senso stretto. È un racconto in cui ci siamo divertiti a intercettare alcuni ricordi del passato attraverso dei meccanismi proprio incidentali, che sono quelli degli odori, dei sapori, il tutto dentro una trama, una storia che è verosimile ma non necessariamente vera. Ah, quindi mi state dicendo che le cose che avete scritto non sono decisamente autobiografiche, Gianrico? No, lui ha detto, tra l'altro, queste frasi che io non sono capace di concepire, di intercettare alcuni ricordi in modo incidentale, quindi io ti direi di proseguire, di fare a lui l'intervista, perché è palesemente superiore. Allora, l'avete capito, i fratelli Carofiglio hanno questo modo, insomma, di dialogare fra di loro, anche piuttosto, insomma, voi battibeccate spesso, lo si capisce anche dal romanzo, perché lo dite, insomma, che avete un modo diverso di approcciare la vita, probabilmente due caratteri diversi, e quindi vi scontrate spesso. Vabbè, non direi scontrate, ma insomma non c'è dubbio che abbiamo dei punti di vista su molte cose differenti. Detto questo, qui ci siamo preparati a lungo per venire qua da te, ogni battuta è studiata, non c'è nulla lasciato al caso. Sono abbastanza terrorizzati, infatti mi dispiace che non possiate vederli in questo momento, ma sguardo, sono abbastanza tesi, vitreo, sì. Uno sguardo vitreo. Allora, partiamo subito a parlare della casa nel bosco. I protagonisti siete voi due, naturalmente, e iniziate a parlare di questa famosa casa a voi molto molto cara, che però a un certo punto avete deciso di vendere, dove trascorrevate gran parte delle vacanze da bambini, ed era nella foresta Mercadante. Ora, tutti i baresi e tutti i pugliesi capiscono perfettamente di cosa sto parlando. In realtà non è una cosa così, insomma, selvaggia, però è un posto dove i baresi vanno spesso a passare le vacanze o comunque il fine settimana. Che cosa rappresentava per voi questa casa, Francesco? Beh, intanto c'è da dire che negli anni 70 la tradizione proprio delle vacanze estive era completamente differente rispetto a ora. C'era la casa delle vacanze, che era spesso una casa neanche tanto distante dalla città, in un luogo di mare o di campagna. In questo caso c'è il bosco di Mercadante, che era chiamato ed è tuttora chiamato foresta, da qualcosa, da un tono, come dire, di mistero maggiore al luogo. Che sembra che cosa in realtà è un boschetto. Però neanche tanto un boschetto, insomma è un bosco però. 1500 ettari, che quindi non piccolissimo. Non piccolissimo, però insomma. Sì, sì. Tra l'altro tutto quanto realizzato, credo negli anni 30, se non mi sbaglio. Sì, una foresta, virgolette, una foresta artificiale, nel senso pur realizzata per ridurre il rischio idrogeologico della provincia, anch'io ho detto le parole difficili, della provincia di Bari, per evitare le alluvioni devastanti che colpivano la città di Bari. E infatti lo scrivete proprio questo, sì, che sì, aveva sì, questa funzione. Infatti devo dire, Gianrico fa più il precisino fra i due, tendi a puntualizzare un po'. Vedi, sopportabile. Tu capisci, come dire, la connotazione. La connotazione, no, perché spieghiamo anche agli ascoltatori. Il romanzo è strutturato per capitoli alternati. Un capitolo scritto da Gianrico, caro figlio, e l'altro scritto da Francesco, caro figlio. Però, come dire, la storia va avanti, insomma, si segue assolutamente un filo logico. Allora, c'era questa casa appunto nel bosco, che detta così sembra appunto una canzoncina. A proposito di canzoncina, perché volevate cantare? No, voleva cantare lui. Ma che canzone? Ma lui voleva cantare. No, adesso sembrate due bambini piccoli, no, che cercano in questa stanza dicendo voglio cantare, quindi fatelo cantare, è peggio per voi. Vabbè, prima o poi alla fine, entro la fine di questa puntata, il cacciatore di libri Gianrico, caro figlio, canterà. Giuro che non la userò contro di te questa cosa. Temo che però la userete contro di me. Potremmo. Allora, ci sono molti ricordi di quando voi eravate ragazzini, per esempio quando avete fatto una sorta di visita, chiamiamola così, assalto quasi notturno alla casa del generale, che era una delle case che stava all'interno della foresta di Mercadante. Che ricordo avete di quell'episodio? Beh, qui il ricordo veramente si impasta con, come dire, una sorta di memoria generata dall'emozione di quella volta. Il ricordo più forte è quello di questo grande Barbagianni che a un certo punto prende il volo all'interno di una stanza, di una casa abbandonata, scatenando la paura e il panico di noi due che eravamo lì ad esplorare, come spesso accadeva in quel periodo, si andava ad esplorare le case abbandonate. Eh sì, era un gioco, infatti questo Barbagianni sbatte le ali, io solo a leggere la scena, come dire, gli uccelli di Hitchcock, relativo. Sì, fa un po' un richiamo a quello lì, però questo è assolutamente vero, è accaduto. Però era un'età in cui era bello avere paura di queste cose, insomma, non so come spiegarmi diversamente. Ci è piaciuto parlandone, recuperare quel tipo di paura. Prima Gianrico, caro figlio, diceva no, ma non abbiamo proprio degli scontri. Sì, però in questo romanzo, La casa del bosco, raccontate a un certo punto che, come dire, uno dei due ha condiviso la ex fidanzata dell'altro a sua insaputa, adesso va di moda dire questa cosa, a sua insaputa, e è stata, come dire, il fattaccio è stato scoperto solo anni dopo. Vabbè, almeno completa, ditemi... però uno dei due, se no sembra di nome e cognome del colpevole. Era la ex fidanzata di Gianrico che ha trascorso una notte di passione con Francesco. Questa cosa è vera? Molto tempo dopo, ammesso che sia vero, non so se se l'è inventata, io sospetto che se la sia inventata. Possibile che me la sia inventata, chi può dirlo? Sì, ma che rapporto comunque non avete? Si trattava di un orrido ménage a trois, insomma. No, ho detto ex fidanzata, ho detto ex fidanzata. Vent'anni dopo. Perché lui è molto più anziano di me, quindi io venivo avvantaggiato dall'età, capisci? Lui ti spianava la strada, esatto. E poi tu andavi avanti. Ma che, a parte gli scherzi, che rapporto avete fra fratelli e avevate quando eravate ragazzini? Perché non è così normale. A parte gli normale. Scherzi, devo dire, noi ci siamo divertiti abbastanza. Abbiamo giocato parecchio insieme fino poi all'età in cui cominci a pensare ad altro e quindi inevitabilmente, come dire, le strade, gli interessi si dividono, insomma, quando uno comincia a diventare adulto e l'altro è ancora un bambino, un ragazzino, è inevitabile che ci sia questa biforcazione. Detto questo, ci siamo divertiti parecchio, d'estate soprattutto. Il racconto che c'è nel libro, che ovviamente non è tutto puntualmente autobiografico, è un diciamo la frase introduttiva che è rubata a Kurt Vonnegut, è tutto accaduto più o meno, in qualche modo dice di che si tratta, è una combinazione di ricordi e di narrazione fantastica, di romanzo, di invenzione, soprattutto poi di espedienti per rendere non riconoscibili i soggetti citati, questo ovviamente, quindi nessuno si immagini di poter trovare citato in qualche modo persone, abbiamo cambiato tutto quanto e l'abbiamo fatto anche cercando di essere scaltri, io non sono molto bravo a essere scaltro, ma insomma ci abbiamo provato in modo da non rendere riconoscibile, però insomma si vede, credo, nel libro, leggendolo, che ci siamo divertiti da ragazzi. Sì, è vero, ci siamo anche divertiti sommato, a scriverlo, secondo me. Abbastanza a scriverlo, ho dovuto qualche volta colpirlo duramente, ma insomma, a parte questo. Infatti, perché si vede nel, lo raccontate proprio nel romanzo, insomma, anche le vostre discussioni, perché è anche un romanzo quasi on the road, perché fate appunto un viaggio nella foresta di Mercadante, ritrovate questa casa e ritrovate anche odori e sapori che erano della vostra infanzia. E infatti fate un po' questo gioco, dice, ah, che odore ti ricordi? Eh? A un certo punto citate la citrosodina. La cita lui, la citrosodina. che non è... Non, sì, si mangia nel senso che... La cito io, la citrosodina, non mi ricordo. È pazzo, non so, non come portarlo in giro. Succedeva questo, cioè, tutti quanti ora più o meno... cercando di fare una digressione, perché... mi ricordo esattamente quello che accadeva. Noi non l'avevamo in casa la citrosodina, ce l'avevano i nonni e noi andavamo a rubare da questo barattolo della citrosodina dei piccoli chicchi, granelli di citrosodina. L'abbiamo fatto tutto noi tutti e si lasciavano sciogliere sotto la lingua, sembravano delle caramelline. Sì, caramelline effervescenti. Pazzo completamente. Avevamo a casa la citrosodina, lui sta confondendo la citrosodina col citrato. Io non devo portarlo in giro non devo portarlo. E sono così, sono veramente così. No, e tra l'altro nel libro, che lì è rigorosamente autobiografico, lui ha fatto un racconto tipo quello che ti ha fatto adesso, di questa impresa audace di lui che andava a rubare il granello di citrosodina, e a un certo punto io gli rispondo, a cipicchia abbiamo fra noi Huckleberry Finn. Ragazzo spiritoso. Invece, a proposito di cose vere che si mangiano, insomma, di gusti e di sapori, non potevate non citare i panzerotti da bravi baresi, in particolar modo quelli della nonna Maria. E scrivete, non mi ricordo chi dei due lo scrive, ma lo capisco subito, Gianrico. La cucina di nonna era fatta di sughi corposi, di bolliti, di pizze rustiche, di focacce, di panzerotti. Allora i panzerotti erano soltanto di tre tipi, con la mozzarella e il pomodoro, con la carne tritata e con le rape stufate. Adesso ormai si fanno un po' con tutto. Che rapporto avete voi proprio con il cibo e con il cibo della memoria? Perché immagino che insomma certi cibi vi ricordino anche un po' la vostra infanzia. Ma in estrema sintesi io dividerei in due categorie. I cibi che uno ha continuato a mangiare e che quindi in qualche modo ti legano al passato come in una sorta di filo, scegliamo di che colore, però... mangiarli oggi è un piacere ma non un'esperienza della memoria, perché hai continuato a mangiarli sempre. Poi ci sono alcune cose che per tanti anni non hai più assaggiato per le più varie ragioni, alcuni dolci fatti in casa per esempio o altre ricette, e quando capita di inciampare in uno di questi sapori a tanti anni di distanza scatta il meccanismo, lo so che è una citazione abusata, ma insomma della Madeleine, e quindi della rievocazione immediata di un contesto, di luoghi, odori, suoni, facce e tutto quanto il resto. Cioè qui Gianrico ci cita Proust, adesso Francesco deve rispondere con una citazione altrettanto insomma... Lui lo cita intanto perché non l'ha letto. Ma è sempre così, la Recherche è uno dei libri più acquistati. Mediano della nazionale francese. No, esattamente, sbagliando, parlavamo. Pilota di automobilismo. Ah, su questo argomento io sono Alain ignorante. Proust si chiamava. Quindi possiamo andare avanti. Ci sono anche altre cose che, nelle quali io mi sono ritrovata, forse perché sono nata e cresciuta a Bari, quindi sono un po' più piccola di voi, però insomma il contesto è quello là. Il ricordo anche del colera del 73, sì, che era scoppiato a Napoli e poi era arrivato a Bari. E da lì, per esempio, ricordate che vostra mamma vi aveva dato tutta una serie di indicazioni, sì, su come... come dire, rimanere il più possibile sterili rispetto al mondo esterno. Beh, sì, quella tra l'altro fu l'estate, enfatizzando, l'estate più lunga di sempre, perché noi siamo andati in campagna a giugno e siamo andati via di fatto a novembre quasi, quando sono riprese le attività delle scuole. E quindi abbiamo vissuto quella campagna e il bosco anche nella stagione di mezzo, che normalmente non veniva vissuta in autunno e... però non mi ricordo più la domanda. No, ti dicevo che... Non devo portarlo. Non bisogna portarlo in giro, Francesco. Comunque il libro è divertente, compratelo, nonostante lui... No, è vero, nonostante quello che sta dicendo Francesco Carofiglio, no, dicevo il ricordo del colera a Bari. Sì, certo. E che vostra mamma vi dava, come dire, una serie di indicazioni che tu hai poi seguito pedissequamente, perché mi pare che tu adesso, almeno secondo quanto scrive Gianrico, sei piuttosto igienista, un po' ossessivo, ti descrive lui. A lui piace sempre riempirmi, come dire, di complimenti, gli piace raccontare il fratello come... No, no, sì, è vero che allora mamma aveva fatto una specie di lista delle cose da fare e da non fare. E una che ricordo molto bene era questa del lavaggio nella mucchina della frutta e della verdura, per un certo tipo di minutaggio preciso. No, io adesso non lavo più nella mucchina, però devo dire per alcuni anni mi è rimasta a me questa... Veramente Gianrico scrive che tu i pomodori ancora li lavi in modo veramente... Ma Gianrico notoriamente mente. Alla fine di questo romanzo, che ripetiamo è un romanzo, non è il classico libro della varia che parla di cucina, cioè è solo un pretesto quello degli odori e dei sapori. Ma se poi... posso, scusami se ti interrompo, se posso dire proprio due parole adesso cercando di, insomma, mi rendo conto che è difficile, sono poco credibile di farla persona seria. Qui c'è un piccolo esperimento di, diciamo che ci sono due esperimenti letterari, uno di metaletteratura, perché il romanzo racconta la sua scrittura in qualche modo, e un altro che è quello veramente di scrivere a quattro mani, ma davvero, nel senso cioè che dopo alcuni passaggi in cui il manoscritto è andato da una mano all'altra e abbiamo integrato per una ventina di giorni, abbiamo scritto insieme. Tu ricordavi giustamente che c'è un capitolo intestato Gianrico e uno intestato Francesco, ma sono tutti quanti scritti insieme con uno sforzo di rendere omogenea la scrittura, lasciando qualche picco stilistico che appartiene diverso, all'uno certo. All'altro. Ecco, smetto ma di fare la come avete seria. Come avete lavorato? No, devi essere una persona seria, cioè non so, scrivevate un capitolo, poi lo mandavate via mail all'altro no, e l'altro abbiamo fatto prima degli incontri, abbiamo parlato a lungo e poi abbiamo buttato giù una sorta di canovaccio su cui lavorare, poi ciascuno ha dato i suoi contributi e alla fine c'è stato questo drammatico periodo finale in cui ci siamo dovuti costretti. Vedere tutti i giorni. E questo è stato il passaggio che mi ha provato più di tutto. Allora, con serietà e sincerità, Gianrico e Francesco, cos'è che vi piace dello stile dell'altro, stile letterario proprio, e cosa invece non vi piace, non vi appartiene, quindi avete fatto un po' fatica a... Direi per quello che riguarda il suo modo di scrivere, quello che mi piace è anche quello che non mi piace, a seconda della misura in cui viene, diciamo, adoperato. Cioè lui ha una notevole inventiva linguistica, una capacità, come posso dire, di descrivere soprattutto i luoghi, ciò che viene percepito dalla vista, la luce, con espressioni immaginifiche. A volte forse si compiace un po' di questa abilità e ci sono delle parole o delle frasi che io taglierei, effettivamente che abbiamo anche tagliato a volte, diciamo, concordando più o meno. Più o meno. Francesco? Ma io non so bene rispondere a questa cosa. Credo che una cosa che riguardi anche qui un pregio che può sconfinare a volte in un difetto nella lettura dall'esterno, nella mia lettura dall'esterno, è quello di a volte voler rendere la scrittura, nell'efficacia della scrittura, tra virgolette troppo popolare, non so come spiegarmi, cioè finalizzata ad ottenere una comprensione immediata, diretta delle cose. A me piace a volte lasciare che le cose non siano del tutto comprensibili. Insomma. Cioè pensi che Gianrico abbia una scrittura didattica? No, affatto, non dico questo. Ha una scrittura chiara, essenziale, che è un gran pregio. A volte io credo che non necessariamente si debba dire tutto nella forma diretta, a volte si può anche non dire utilizzando delle forme nella sintassi e nel modo di esprimersi che lasciano uno spazio al lettore differente. Va bene, intitolerò il mio prossimo romanzo Prolegomeni epistemologici. Vabbè, non verrai qui perché non saprò ripetere il titolo, quindi benissimo. Sarà l'unico romanzo su cui... Comunque si è esercitato, voglio dire, un paio d'ore per dirlo. Per dirlo, titolo. Infatti, per poi cantare naturalmente, perché bello, quello è l'obiettivo sono principe di questo incontro. Sono contenta che non abbia dimenticato questa cosa. No, io ho una memoria elefantiaca proprio. Sì. Invece a proposito delle ricette, che poi insomma alla fine ci sono 7 ricette, un piccolo compendio, insomma vostre ricette di famiglia, insomma molto casalinghe, ecco, di cibi ai quali siete particolarmente legati, naturalmente non poteva mancare riso, patate e cozze. Sì. E dimmela, come la fai? In due parole. Cioè, no, ma abbiamo inventato, mica le sappiamo fare veramente, le abbiamo copiate. Perché ho visto che tu sai fare solo due cose, la pasta, gli spaghetti all'assassina e un'altra cosa. No, aspetta, le so fare tutte e 7 le ricette. No, me lo sono segnata, Gianrico sa cucinare la frittata di pasta. Il pubblico magari pensa che io non sia in grado di farle, adesso ti dirò tutta quanta la ricetta del riso, patate e cozze. No, un segreto, adesso abbiamo il tempo per tutta la ricetta. Il segreto è l'acqua di pulitura delle cozze che deve essere usata per cuocere il riso. Ah, quindi tu le lavi? Quindi pulisci le cozze, non butti via l'acqua, ma la filtri e poi la versi nella tiella che utilizzi per cuocere, e con quell'acqua si cuoce il riso ed è proprio quell'acqua che dà il sapore particolare. Vabbè, gli ascoltatori non lo sanno, ma c'ha Wikipedia sotto. No, no, posso confermare che Gianrico Carafiglio non ha Wikipedia. Io ovviamente ho il libro, le ricette, proverò a seguirle, poi se qualcosa verrà male naturalmente sarà solo colpa vostra, voi chiaro, questo lo sapete. Certo, puoi chiamarci quando vuoi. Canzone. In che senso? Devi cantare. No, no, mi dispiace, non posso, perché come sentì dire una volta da un noto musicista di cui non farò il nome, degli anni 70, che fu richiesto di cantare durante un programma, e questo si tirava indietro e poi disse: no, ma mi dispiace, se avrei un organo, se avrei un organo. Stai attento perché potrebbe spuntare un organo. Improvviso, adesso tiriamo. Leggendaria, se avrei un organo, credo che è rimasta, diciamo così, scolpita nella mia memoria in modo indelebile. Ed è uno, diciamo, noto ancora oggi. In questo momento non ti seguo, però cerco di... Sarà stato uno sportivo, no? No, era un musicista. Ah, un musicista, scusa, se avrei un organo. Purtroppo non ce l'avete l'organo. Francesco, qua. Tu una... Una canzone? Una strofa. Vorrei dire che sei pazza, però non lo dico perché non ci penso neanche a cantare. Vabbè, cioè i fratelli Carofiglio... Se avessi un organo potrei suonare per te. Va bene, io con questa dedica veramente che mi porta nel cuore. Perché poi lui, effettivamente lui è capace di suonare, lui il pianoforte lo sa suonare, potrebbe davvero suonare per te. Io lo farei con piacere se fossi capace, ma... Va bene, niente, fratelli Carofiglio, no. 0, la Tedesco 1. Finiamo così questo nostro incontro. Anche alcun dubbio, non c'era alcun dubbio. La Tedesco 2. È la Tedesco 2. Grazie allora Gianrico e Francesco Carofiglio, grazie. Anche per, come dire, per la simpatia che ci hanno dimostrato. Sono venuti qua anche un po' a scherzare, mettiamola così. Il loro libro è veramente molto bello. La casa nel bosco mi ha un po' riempito il cuore, perché mi ha fatto, anche se non ho gli stessi ricordi dei fratelli Carofiglio, però non so, quel narrare sul filo della memoria a me piace molto. Il libro è pubblicato da Rizzoli. Qualche giorno fa, il 23 aprile, abbiamo festeggiato la giornata mondiale del libro, dedicata al libro, ed è stata anche la partenza di un'iniziativa che ormai avviene da qualche anno, che si chiama Il Maggio dei Libri, un'iniziativa organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura. E con noi la direttrice del Centro per il Libro e la Lettura, Flavia Cristiano. Allora Cristiano, innanzitutto questo è un modo per apportare, diciamo, in questo mese di maggio, come già avete fatto negli anni scorsi, la lettura e il libro in posti insoliti, non so, nei parchi, nei negozi, anche un po' dappertutto. Qual è la mission di questa iniziativa? Allora, l'iniziativa si propone di puntare l'attenzione sul libro e sulla lettura, e possibilmente di non farlo sempre nei soliti posti, vero? E quindi cerchiamo o di portare la biblioteca fuori dalle sue mura o di portare il libro in contesti diversi. Insomma, l'obiettivo è cercare di coinvolgere nella lettura esattamente. Persone che magari normalmente non leggerebbero. Possiamo fare l'esempio, le iniziative sono tantissime in tutta Italia e si trovano su www.ilmaggiodeilibri.it, però possiamo fare qualche esempio concreto di iniziative particolarmente così, originali? Un esempio è su uno dei nostri partner, la Coop, per essere esatti la Unicoop Tirreno, che organizza iniziative appunto in contesti insoliti, e ci sarà una maratonina letteraria nella sala riunioni della circoscrizione prima di Livorno. Oppure, altro esempio, altra regione, siamo in Veneto, altro soggetto, qui è un'associazione culturale, le Orto Letture. Questa è molto interessante e stratificata, perché è una riflessione sul fatto che la lettura, come la coltivazione di un giardino, la coltivazione di un orto, richiede tempo, richiede lentezza, richiede capacità di aspettare. Allora, all'ombra di un albero, per 3 pomeriggi di maggio, si leggeranno libri e albi illustrati ispirati al mondo della natura. Grazie a Flavia Cristiano, direttore del Centro per il Libro e la Lettura, che ci ha illustrato, insomma, il Maggio dei Libri. Trovate tutto su ilmaggiodeilibri.it. E ci sono tante iniziative in favore dei libri. Un'altra che mi piace segnalare è il progetto culturale Città Invisibili, che coinvolge soprattutto bambini e ragazzi nei comuni e nelle scuole del Veneto. Ci sono dei testimoni ad eccezione come Gian Antonio Stella, Marco Paolini, Tiziano Scarpa, Lorenzo Monguzzi. Si fanno diverse cose naturalmente, incontri con gli scrittori, laboratori, iniziative, insomma tutto quanto lo trovate su cittainvisibili.org. Ma mi piace soprattutto sottolineare l'iniziativa Ci metto la faccia. Bisogna farsi un selfie, che ora va di moda, con il proprio libro preferito, e la foto va inviata appunto a cittainvisibili.org indicando il titolo del libro scelto e la frase più bella da sottolineare secondo voi. Parliamo ora di premi letterari, in attesa naturalmente dello Strega, che sappiamo insomma è il premio letterario più ambito dagli scrittori italiani. Nel frattempo sono stati annunciati i vincitori della 40ª edizione del premio internazionale Mondello. Allora, sono arrivati in finale per il premio Opera Italiana Irene Chias con Esercizi di sevizia e seduzione, Mondadori, Giorgio Falco con La gemellacca e Einaudi, e infine Francesco Pecoraro con La vita in tempo di pace, Ponti alle Grazie. Fra questi tre vincitori, diciamo, del premio Mondello, una giuria di 240 lettori forti deciderà qual è il vincitore del Super Mondello a novembre 2014. Ci sarà una votazione online che parte dal 3 giugno fino al 10 ottobre, e mi piace ricordare anche che i lettori sono scelti appunto dalle librerie. Il premio Mondello non riguarda però solo scrittori italiani. Il premio autore straniero è stato assegnato all'americano Joe Lansdale. La decisione è stata presa dal giudice monocratico Niccolò Ammaniti. Il premio verrà consegnato personalmente all'autore texano durante il Salone del Libro di Torino i primi di maggio. Prima di chiudere vi segnalo una chicca che riguarda il domenicale del Sole 24 Ore. Lo sapete, insomma, l'inserto culturale in edicola tutte le domeniche appunto con il quotidiano. Ve lo segnalo perché a partire da domani, 27 aprile, saranno pubblicati periodicamente dei racconti di Stephen Amidon, dell'autore americano Stephen Amidon, che ha scelto appunto il Domenicale come il primo giornale italiano nel quale pubblicare dei suoi racconti inediti. Amidon, per intenderci, è l'autore del romanzo Il capitale umano, dal quale Paolo Virzì ha tratto insomma il film di notevole successo da noi. Dunque, a partire da domani troverete sul Domenicale del Sole 24 Ore i racconti inediti di Stephen Amidon. Ed è tutto per questa puntata. Grazie in regia Roberto Scaltritti. Come sempre mi trovate su Twitter, Ale Teddina, su Facebook e tutto l'archivio delle puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.